so, è una partita a rischio, anche per quello che sta succedendo oggi sui giornali, c'è tanta confusione. Comunque credo che un po' di turnover lo debba fare, perché insomma l'Inter ha un organico eccezionale, ha tantissimi giocatori validi, però insomma la base della squadra comunque deve sempre rimanere. Devono Quella. girare alcuni giocatori che non sono, non dico non dico scarsi, perché sarebbe una roba incredibile di dare degli scarsi ai giocatori dell'Inter, però insomma ci sono dei giocatori inamovibili, specialmente a centrocampo, Sì. e logicamente questi giocatori devono sempre giocare, o perlomeno entrare in campo, poi li puoi sostituire gara in corso. A proposito di turnover, io non discuto le coppe, né la Coppa Italia, né tantomeno la Coppa dei Campioni, dove l'Inter è cresciuta molto di rendimento. Siamo però sicuri che in campionato, negli ultimi 3 mesi in cui l'Inter si è fatta mangiare davvero un capitale abbastanza incredibile, siamo sicuri che la gestione del turnover, sia stata la più azzeccata, a parer tuo? Ah beh, no, stando ai risultati no. L'Inter si è mangiata 14 punti. Che sono tanti, eh. Sono tanti, ma probabilmente succedono queste cose. Nel senso che hai già in tasca il campionato, c'è un certo rilassamento, e poi riprendere sulla stessa linea, sulla stessa concentrazione, diventa difficile. Probabilmente la testa era rimasta in Coppa dei Campioni. E poi quando te ne accorgi che, diciamo, non c'è più fieno in cascina, è difficile rimetterlo dentro. Certo, c'è Comincia a ancora la. saltarne. Adesso, prima l'Inter dipendeva esclusivamente da lei, adesso dipende dagli altri, questo è un guaio.